Parlo per ultimo e consapevole anche di venire in effetti per ultimo in questa ricerca. Si è parlato qui appunto di problemi e di edizioni e sono stati posti così sul tavolo fondamentalmente due testi, intendendo per due testi due gruppi di testi o di saggi. Questo appunto che tratta statuti città-territori e nel complesso il lavoro che è stato fatto all'interno del corpo statutario con lo statuto di Ledro, di Ala Avio e di Rovereto, e io mi permetto anche di dire anche lavori che sono in preparazione, tipo lo statuto di Riva o forse chissà anche lo statuto di Arco, forse improprio chiamarlo statuto, comunque diciamo la carta di regola di Arco, che può avere anche una sua parziale significanza statutaria. E è quindi il caso di provare, di tentare, considerando comunque un intervento di questo genere in un'accezione dialettica, di trarre qualche possibile conclusione alla luce dei modelli che sono stati appunto sviluppati all'interno di questo studio, appunto Statuti Città e Territorio, e di quanto invece è emerso e sta emergendo nell'area trentina. È ovvio che bisogna considerare tutte le problematiche che sono state qui annunciate, sia da Diego Quaglioni che da Gerardo Ortalli che da Giorgio Chitolini, è evidente, e anzi queste problematiche direi che pesano sull'interpretazione a più occhi dello statuto, cioè uno statuto visto in quelle dimensioni che qui sono state delineate e che in fondo forse hanno complicato in un certo verso le cose che prima potevano essere magari viste in modo molto più semplice, come qualche volta qualche scarsa bibliografia ha fatto. Partirei dall'assunto sintetico di Chitolini, che ovviamente non ha l'orgoglio di riassumere tutto quello che c'è all'interno di questo prezioso testo, cioè Chitolini dice che statuto e città sono praticamente, chiamiamole due entità con un termine provvisorio, che trovano connessione, che trovano possibilità di rapporto soprattutto in Italia. Su cui in effetti avviene quel fenomeno di statuizione che noi intendiamo nel modello classico appunto della statuizione. Diverso il caso della Germania. Il Trentino, già visto in questa dimensione, si presenta sicuramente come un'area a cavallo di due problematiche. L'area appunto tedesca e l'area delle città, dei comuni dell'Alta Italia, proponendo quindi una lettura che deve tener conto di questa sua specificità. All'interno comunque di quest'area, piano piano, vanno maturando quelle che Ortalli stesso chiama delle subaree, che sono quelle ad esempio della Trentino veneziano a un certo momento, e del caso singolare, specifico, ma forse non tanto a guardarlo fino in fondo, comunque in ogni caso da tenere separato, di Riva del Garda. Se noi ci avviciniamo appunto al problema con quest'ottica, possiamo notare che per quanto riguarda il Trentino siamo di fronte, almeno fino a un certo periodo, a tutta una serie di, più che altro, carte di regola. Lo Statuto di Trento, in effetti, lo troviamo piuttosto tardi, con tutte le problematiche sollevate anche a questo proposito dello stesso Schieri, cioè noi ci troviamo di fronte purtroppo a dei testi, in caso trentino in particolare, che appartengono ormai a un'età, diciamo così, avanzata del Comune. Comunque, per quanto riguarda Trento, appunto, siamo di fronte ad una serie di statuti regolanari. E ne sono testimonianza i documenti che noi conosciamo, dai documenti vanghiani alle stesse leggi di Egnone, eccetera, eccetera. Ad un certo punto, forse la città che potrebbe percorrere quella strada che appunto è stata indicata all'interno del testo, è stata indicata soprattutto nella sintesi fatta da Giorgio Chettolini, potrebbe essere appunto il capoluogo, potrebbe essere Trento. Però noi vediamo che nell'età federiciana una possibile evoluzione in questo senso del capoluogo trentino viene in effetti decapitata quando appunto si ridimensiona quello che è il potere del comune e invece si dà molta importanza alla figura del principe vescovo. Quando noi, sulla base dello studio del Voltellini, ci avviciniamo allo Statuto di Trento, e per forza di cose qui non posso fare le citazioni che sarebbe opportuno fare, in effetti ci troviamo di fronte, a mio avviso, attento questa possibile lettura, a uno statuto che non è uno statuto di città, oppure meglio, non è solo uno statuto cittadino, ma di fatto è uno statuto territoriale, perché è adottato con l'enclave Rivana praticamente da tutti i centri trentini, per quanto riguarda se non altro quelle che sono le procedure di diritto criminale, chiamiamo così le procedure criminali, ma in parte anche, in buona parte, anche per quanto riguarda la normativa civile, i placiti duecenteschi testimoniati appunto all'interno del codice Vanghiano ne sono un esempio. Nel momento in cui noi, cioè all'inizio del 400, Venezia penetra in Trentino, come scrive Ortalli, ci troviamo di fronte in effetti a una situazione che cambia, una situazione, diciamo così, che va trasformandosi. Il fatto di Alaeavio, di Rovereto poi, di Ledro, dimostra che in effetti questi borghi, o questa comunità di valle, come appunto Ledro, si appropriano di quello che è un diritto territoriale, come l'ho definito prima, per farne un diritto proprio. E diciamo così, sia i patti che vengono stabiliti con Venezia al momento della conquista che queste edizioni appunto di Rovereto, di Ledro eccetera dimostrano come qualche volta, cito ancora Rovereto, addirittura lo statuto trentino, lo statuto del 300 venga copiato lasciando ancora al suo interno quelli che sono i riferimenti al territorio, al distretto del capoluogo. Viene quindi assunto senza che ci sia una particolare pregnanza giuridica all'interno del borgo, una pregnanza che possa in qualche modo trasformare questo diritto territoriale in un diritto che sia veramente proprio nel senso di una facoltà di statuire. E Venezia, a mio avviso, non trova difficoltà, anche perché questa era la sua prassi, una prassi così, di un modo di comportarsi con le comunità, una prassi del diritto, ad accettare questa situazione. D'altra parte è una statutaria che, così nei miei appunti io sottolineo, una statutaria che nasce asfittica, almeno per Rovereto, che non è in grado di reggere quelle trasformazioni che Rovereto subisse con l'avvento di Venezia, in quanto Rovereto da piccolo borgo passa in effetti a diventare centro di una podesteria, cioè piano piano a diventare centro di un territorio che va a inglobare anche le zone circostanti, e giustamente ha detto già Ortalli prima che le comunità di Ala, Avio eccetera, finché non entrerà in campo la statutaria madruziana dei quattro vicariati, si trovano inglobate in quella che è una podesteria che trova appunto capo a Rovereto. Quindi noi abbiamo, e lo statuto di Rovereto lo dimostra, in effetti uno statuto, permettetemi di dire, che allunga la sua dimensione, che non è più quello statuto codificato e ripreso da Trento, ma è uno statuto che vive, e le glosse poi successive lo dimostrano ancora bene, attraverso tutta una serie di interventi, che sono interventi che arrivano appunto da Venezia, attraverso le ducali, attraverso gli auditori novi, attraverso le aggiunte, addirittura alcune prese dallo Statuto di Riva e trasportate nel 60. Allora direi che, ritornando, i primi passi di San Marco, delle insegne marciane appunto in terra trentina, sembrano in qualche modo venire anche ad avvicinarsi a quello che Venezia aveva già fatto in alcune altre zone del Veneto, quando, cito spero correttamente, lo studio di Varanini, quando a Treviso anche lì si era trovata di fronte ad uno statuto che in effetti non abroga ma lo integra con tutta una serie di altre aggiunte, di provisioni, eccetera, che in effetti lo svuotano di quello che è il significato che poteva avere nella sua sostanza, diciamo così, prima. Devo passare appunto rapidamente anche per il tempo. La stessa cosa la possiamo pressappoco trovare negli statuti di Ledro. Anche qui ci sono meccanismi che ci permettono di evidenziare come in effetti Ledro vada ad assumere quella che è un sistema statutario, cito Ortalli, di matrice trentina, che si fissa appunto in questa età veneziana. Ledro si trova pressappoco, come dicevo prima, nella situazione di Ala, Avio, Rovereto, però con la differenza che prima di passare nell'orbita di Venezia vive la situazione dell'autonomia, diciamo così, di valle, che del resto caratterizza anche altre aree trentine. E in effetti risulta legato alla podesteria di Riva. Con la conquista veneziana, Venezia arriva in Val di Ledro nel 25, mentre Riva viene conquistata solo nel 40, con i patti poi di annessione del 26, e per quanto riguarda le competenze, diciamo così, che esonano dalla quella che è la potestà del vicario, la Valle di Ledro viene quindi per un momento trovarsi svincolata da quello che è il suo centro, appunto la podesteria di Riva. E quindi nell'ambito di modalità già sperimentate non fa altro che richiedere un proprio statuto e altrettanto cosa fa? Copia di nuovo, come è stato dimostrato appunto, e prima Chitolini ha fatto riferimento al codice ledrense, copia di nuovo quello trentino-roveretano a questo punto, con forse qualche possibile influenza del codice rivano. E nonostante Ledro venga dopo il 40 riunito alla podesteria, nuovamente riunito alla podesteria rivana, e quindi obbligato a sottostare all'amministrazione criminale del luogo, della città benacense, e qui però si inverte per un certo verso quella situazione che era venuta a Rovereto, cioè se Rovereto aveva acquistato autonomia con l'arrivo di Venezia, almeno da questo punto di vista, dal punto di vista della statutaria, trasformando appunto una statutaria territoriale in statutaria propria, per quanto riguarda la zona, Riva in questo caso si trova invece a perderla, perché la concessione dello statuto a Rovereto fa sì che Riva in pratica, a Ledro, fa sì che Riva si trovi, diciamo così, sminuita di quello che era la sua potestà nella giurisdizione, nella podesteria che appunto toccava anche Ledro. E qui si vede, a mio avviso, un problema nuovo, cioè un problema che nasce quasi da una terza area, un'area che era stata a contatto per tutto il 300, anche per il 400, cioè per una buona parte del 300 e del 400, con quella che è la realtà scaligera e con quella che è la realtà viscontea, dove in effetti non assistiamo, non c'è solo una realtà di borgo, ma è una realtà che non dico cittadina nel senso della civitas, ma comunque di un centro che ha sviluppati degli interessi diversi e anche direi un ceto come quello dei giuristi locali che probabilmente è più maturo rispetto alle altre zone. In effetti il disagio di Riva si esprime in modo secco, in modo netto con Venezia e fa riferimento in effetti a una nuova filosofia del diritto, a quella filosofia del diritto che è matura in questa zona, relativamente matura, e che si riferisce appunto a quella che è stata l'evoluzione, diciamo così, che in qualche modo è determinata dalle suggestioni umanistiche, neoplatoniche, eccetera, eccetera. Il discorso dell'influenza dei buoni custodi della legge arriva, si fa sentire, tanto che nel 1458 i Rivani scrivono a Venezia dicendo: ma come è possibile che voi concediate, in quest'ottica diversa rispetto alle altre realtà trentine, una possibilità di farsi giustizia, uno statuto a una valle come quella di Ledro rusticana, dove esistono appunto dei rusticali e senza scienza? Com'è possibile che voi ammettiate una cosa di questo genere? Dice, citando appunto Platone, le città si reggono su quelli che sono i sapienti e il nuovo concetto del diritto, che appunto passa attraverso, così singolarmente, attraverso questa ambasciata veneziana, rimarca il discorso appunto che non è possibile, nella lettura appunto giustinianea, una nuova lettura giustinianea, autorusticania, nullum obsequium, eccetera, eccetera, non è possibile che sia concesso uno statuto a delle persone appunto che non hanno la possibilità di ministrar rason, considerando il poco conoscer de quelor che vivono appunto in questa valle. E quindi dice, alla fine succede che domina ancillator ed ancilla dominator, e così scrivono appunto i Rivani. E in questa situazione, in effetti, Venezia si comporta diversamente da quanto fa Rovereto, perché si trova in una situazione appunto diversa. E quando arriva, e al bisticcio di parole, Venezia non concede lo statuto ai Rivani, nonostante i Rivani avessero uno statuto e provenissero da quella che poteva essere così una tradizione relativamente ampia di statutari. Abbiamo frammenti purtroppo non venuti alla luce, a parte lo statuto del 1274 che precede addirittura quello trentino, almeno per le conoscenze che abbiamo adesso, ma abbiamo frammenti dello statuto di età scaligera e dello statuto di età viscontea, almeno l'incipit, anche se non sono rimasti i codici. Riva quindi non concede lo statuto, perlomeno per quanto riguarda, chiamiamolo così, la parte riferita ai criminali, e obbliga i Rivani a sottostare per questa parte alla statutaria di Verona. Solo nel 1451, quindi 11 anni dopo, noi ci troviamo con uno statuto, quello che si chiama appunto una statuta nova, che è frutto molto probabilmente di una mediazione col nuovo potere, è frutto della mediazione con la nuova dominante, anche se, esaminando questo statuto, ci accorgiamo ancora che la matrice forte, la matrice fondamentale è ancora quella dell'area trentina, ma non quella dell'area trentina, non dello statuto trentino del 1425, cioè quello mazoviano, ma dello statuto trecentesco. Quindi molto probabilmente c'era stato in qualche modo un percorso parallelo, comunque organizzato in maniera più sistematica. Lo statuto rivano è composto ad esempio dai quattro libri, con un primo libro che riguarda l'istituzione podestarile, in questo caso nel periodo veneziano ovviamente dei rettori del provveditore, ma che comunque anche nel 274 teneva presente questa istituzione. E scusatemi la regressione, i Rivani, come si dice, si manifestano fortemente il loro diritto all'elezione del podestà, ad esempio, cosa che a Trento non è altrettanto fattibile. Ecco, comunque, dicevo, si arriverà nel 1451 per avere uno statuto che è frutto di una mediazione tra quello che è lo statuto che era maturato attraverso le dominazioni precedenti, che era maturato alla luce di un'idea nuova, ma che comunque deve anche tener conto della nuova dominante. E qui, appunto, c'è tutto questo discorso che i Rivani fanno nei confronti di Venezia. E i Rivani non si accontentano. Noi abbiamo trovato proprio in questo periodo che nel 1476 i giurisdicenti locali mettono insieme un altro codice statutario, che molto probabilmente però non viene mai approvato da Venezia, tanto che troviamo una mandata di ambasciatori, di giuristi a Venezia, rimangono lì 25 giorni e vengono pagati appunto dal comune, insieme al compare, voglio dire, il pagamento assieme a quello che riguarda la compilazione del nuovo statuto, si dice molto chiaramente, però è una redazione della. Non abbiamo notizie. E questa situazione dello statuto del 1451 si protrae praticamente anche dopo l'uscita di scena di Venezia. Un altro problema, quindi, che succede dopo l'uscita di scena di Venezia? Abbiamo detto che con Venezia un diritto territoriale per quanto riguarda l'Edero, Rovereto, Ala, Avio diventa diritto proprio, anche se un diritto proprio che nel caso dell'Empio Roveretano non è sufficiente a reggere una nuova situazione. Arriva, ho già spiegato, che percorre questa sua strada che va tenuta distanziata dal resto. Dopo l'uscita di Venezia, dopo l'uscita di Siena di Venezia, vediamo il caso Rivano, lo statuto resta tale quale, non viene per nulla modificato. Si inverte quasi la situazione. Se prima Venezia aveva lasciato lo statuto tarentino a Rovereto, per quanto riguarda la nuova dominare del Principato, vescovo e principe vescovo, non tocca lo statuto rivano, tanto che nel 1634, in una lettera che i sindaci rivani, i podestà rivano, invia al vescovo di Trento, si dice: noi vorremmo riportare a stampa il nostro statuto. Ma siccome è stato fatto nel 1451 e nel 1451 ovviamente dominava Venezia, nel tradurlo, nel farlo stampare, dovremmo tirar via i riferimenti alla vecchia dominante e mettere i riferimenti alla nuova dominante, che sono appunto quelli del Principato Vescovile. E sulla base di questi percorsi, cioè di quella che Ortaglia ancora chiama una riassunzione statutaria nell'ambito di quello che potrebbe essere il tronco del Principato, ci sono delle cose forse non ancora del tutto spiegate, poco chiare. Chitolini prima citava quello che avveniva in Val di Ledro, cioè della richiesta dei ledrensi di superare lo statuto del capoluogo per far ricorso al diritto comune. Abbiamo però invece delle situazioni dove questo non avviene. Vediamo delle resistenze di fronte alla possibilità di introduzione del diritto comune. Non solo nei centri, diciamo così, che avevano avuto la possibilità di arrivare ad un diritto proprio, ma anche nei centri feudali, nei centri signorili. Il caso di Arco nel 1507 mi pare abbastanza emblematico. I cittadini arcensi chiedono espressamente che, per evitare la possibilità di imbrogli, di soprusi, eccetera, sia osservato sempre lo statuto trentino, non il diritto comune. E così avviene anche in altre località, cioè c'è una resistenza di fatto nel momento in cui invece il diritto comune entra ed è titolato anche all'interno degli statuti, sia tornando indietro nello statuto di Alessandro di Masovia, sia nello statuto clesiano, sia nello statuto di Riva, c'è sempre questo riferimento al diritto comune. In effetti, a parte questo caso ledrense, per quanto mi risulta, nelle altre comunità vedo una resistenza invece al ricorso al diritto comune. Anzi, addirittura vediamo che anche dopo l'uscita di scena appunto di Venezia e anche dopo la redazione dello statuto clesiano, ci troviamo di fronte a delle trasposizioni ancora dello statuto clesiano all'interno di quelli che sono carte regolanarie. Poi le riforme ovviamente anche all'interno di quelli che sono gli statuti che rimangono, Riva, Rovereto, eccetera, eccetera, che vengono presi, ci sono pianta e portati dall'altra parte. Come del resto, e poi finisco perché mi sono dilungato fin troppo, avvertiamo la continuazione di percorsi paralleli, torbole, quando all'inizio del 600 chiede la possibilità di avere un proprio statuto, non prende lo statuto trentino, ma prende lo statuto di Riva. Non fa altro che tradurre dal latino all'italiano lo statuto di Riva e proporlo per l'approvazione, e lo statuto che funziona a Torbo è lo statuto di Riva, non lo statuto di Trento. Quindi questo problema di tutta una serie di percorsi paralleli che debbono ancora trovare una spiegazione. Cito senza approfondire il discorso che può saltare fuori dallo studio dello statuto di Tignale, dallo statuto di Bagolino, cioè di entità periferiche ma che comunque hanno risentito dell'azione veneta, veneziana, e che Tignale è stato, come Ledro per un certo periodo, legato alla podesteria rivana, oppure Bagolino che invece rimane legato alla diocesi di Trento. Qui vediamo che già a una prima vista ci sono dei rapporti sicuramente di matrice ma anche di continuità di questi percorsi, ma ovviamente sono delle cose che debbono trovare ancora altri studi e altri approfondimenti. Ecco, la difficoltà sta anche qui nel cercare di vedere questa problematica in tanti modi, con tante ottiche, e ovviamente nel disporre di fonti che possano essere attendibili, che possano essere studiabili e studiate nel modo che qui mi pare si è cominciato a fare, che questa è la sostanza di questo incontro, dimostrare come è stato, mi pare, dimostrato, mi auguro almeno che sia stato dimostrato, come questo inizio, come queste prime picconate, per usare un neologismo, abbiano in qualche modo aperto delle strade nuove che ovviamente, bisognerà finire di percorrere. Grazie.